24 mattino. È arrivato il momento dell'economia, 16 minuti dopo le 8, in studio già con noi Deborah Rosciani. Soldi e dintorni. E dunque buongiorno Deborah, Irene, questa buongiorno. Mattina. Questa mattina un bel atmosfera tema. Da spiaggia. E ci riguarda anche un po' da vicino, Irene, perché anche noi sicuramente almeno una volta nella vita saremmo state tentate da un acquisto di una bella borsa di Prada in spiaggia. Mi è piaciuta questa tua finezza. State tentate in procinto di, ma naturalmente. No, io devo non dire la verità che ho resistito, però ho fatto molta fatica perché sono dei prodotti molto abilmente contraffatti, sono belli e magari acquistandoli ci fanno risparmiare un bel po'. Andare al punto vendita di Prada, Dolce Gabbana o Gucci a Milano, come tu sai. Di blitz della polizia, carabinieri, guardia di finanza, si è parlato molto anche in passato, ma c'è qualcosa di nuovo, allora te lo lascio illustrare. Ti ringrazio molto. Allora, parliamo dei venditori ambulanti in spiaggia, delle griffe contraffatte. Questa mattina è un fenomeno sempre presente che il nostro paese, come tanti altri, conosce molto bene, molto contrastato dalla normativa nazionale a tutela del Made in Italy e dalle forze dell'ordine, ma le spiagge, le piazze delle più rinomate località di vacanza, soprattutto in questo periodo, continuano ad essere affollatissime di venditori ambulanti, per lo più extracomunitari, che ci tentano, come dicevo prima con Irene, con prodotti abilmente contraffatti. Borse, portafogli, cinture, capi di abbigliamento delle marche più note. E allora perché stamattina ne parliamo? Intanto perché ci faremo raccontare, adesso vi dirò anche da chi, delle operazioni di contrasto a questo fenomeno più forti nel nostro paese, sentiremo cosa accade sulla Riviera Ligure, ma c'è anche una normativa nazionale più stringente in questo momento che coinvolgerà i clienti delle griffe, fasulle, linea dura, soprattutto nei loro confronti. Allora io intanto saluto il capitano Samuele Sighinolfi, comandante della Compagnia Carabinieri di Alassio. Comandante, buongiorno. Buongiorno. Devo chiamarla capitano, è indifferente come funziona. Sì, è indifferente. Allora, dall'inizio dell'anno la vostra compagnia ha messo a segno contro questo fenomeno almeno una trentina di operazioni, ma se vado a controllare la mia rassegna stampa devo dire che in tutta Italia in questo periodo le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza, soprattutto la polizia municipale, sono indaffaratissimi contro questo fenomeno. L'ultima vostra di questa settimana è, come dire, per certi versi anche molto divertenti, perché avete trovato anche dei venditori ambulanti che custodivano e nascondevano il loro materiale dove, capitano? Sì, all'interno di un cimitero. La Iguaglia è un piccolo borgo turistico che ha un cimitero che si affaccia sul mare e la nuova tendenza dei venditori abusivi ambulanti è quella di girare con dei cataloghi per non portarsi tutta la merce appresso, mostrare i prodotti ai turisti, farli scegliere attraverso addirittura un codice identificativo, poi si recano in questi magazzini clandestini a ritirare il prodotto. Tempo 15 minuti avviene la consegna. In questo caso avevano scelto il cimitero perché era molto comodo, era molto vicino alla spiaggia. Qual è la merce che nascondevano in questo posto? Piuttosto curioso. Abbiamo trovato di tutto, dalle borse, orologi, cappelli, scarpe, magliette, polo, tutte con marchio contraffatto delle più prestigiose marche e anche prodotti con marchio non contraffatto. Allora, che cosa succede quando vi imbattete in situazioni di questo tipo? Che fine fa il venditore ambulante, che è il malcapitato protagonista ovviamente della vendita, ma soprattutto se vi capita di cogliere in flagranza di reato, perché questo è da definire solo in questa maniera, anche un cliente che sta comprando un articolo di questo tipo, comandante, come vi comportate? Perché poi adesso arriviamo anche alle sanzioni più facili per i clienti. Sì, lei ha detto benissimo, in flagranza di reato, perché anche il cliente commette non un reato ma due. Bisogna distinguere tra merce con marchio contraffatto o alterato e merce che è venduta abusivamente ma che non ha nessun marchio contraffatto o alterato. In quest'ultimo caso sono sanzioni amministrative, mentre con i marchi contraffatti e alterati siamo nel penale, sia per chi vende sia per chi acquista. In particolare chi vende è punito con la reclusione fino a un anno e la multa fino a 20.000 euro, quindi una sanzione molto, molto pesante. Mentre per chi acquista possiamo incorrere nel reato di ricettazione, che è chiunque acquista cose provenienti da un qualsiasi delitto, quindi in questo caso sono prodotti che provengono da un delitto, è punito con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa fino a 10.000 euro. Insomma, quindi la normativa è piuttosto severa. Capitano, io la interrompo per un attimo perché volevo coinvolgere anche l'altra persona che abbiamo invitato questa mattina in questa nostra conversazione, ma rimanga con noi perché vorrei anche con lei raccontare poi che fine fa tutta la merce che sequestrate. Buongiorno a Carlo Guglielmi, presidente di Indicam, l'istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione, ma oltre a questo, dottor Guglielmi, è anche amministratore delegato di Fontanarte, che è una delle più prestigiose aziende di illuminazione, arredo e design del nostro paese. Anche le vostre lampade vengono contraffatte, presidente Guglielmi? Certo, anche le nostre lampade, purtroppo non dai cinesi, o meglio, non solo dai cinesi, ma da tanti italiani. Non le troviamo in spiaggia, naturalmente, ma dove vengono messe in circolazione, per esempio, degli articoli così particolari, abilmente riprodotti? Ma uno dei canali preferiti è quello di internet, che è un canale preferito non soltanto per i nostri prodotti, ma anche per altri, come i farmaceutici, i medicinali, le borse, gli accessori. Quindi internet è una spiaggia aperta a tutti, purtroppo, e dove le responsabilità non sono ancora state definite da nessuna legge in Europa. Ecco, quello ovviamente di questa mattina, come dire, è un tono della trasmissione in qualche maniera, anche se vogliamo, divertente, ma non tanto, perché ovviamente la vacanza ci porta a parlare di quello che accade, dicevo prima, delle località di vacanza, delle spiagge, quindi delle località più note. Ma come ci diceva giustamente il presidente di Indicam, qua stiamo parlando di un problema ben più ampio che danneggia, presidente, non poco. Soffermiamoci sullo stato della nostra economia, il Made in Italy. Quali sono i numeri? Guardi, si calcola, stime OCSE, che tra il 9 e il 10% è la percentuale del prodotto industriale mondiale di contraffazione. Se noi pensassimo in questo momento di ridurre drasticamente, annullare drasticamente questo 10%, la crisi sarebbe ancora crisi, ma certamente un po' meno. Ricordo oltretutto che la contraffazione è fare contro, vuol dire fare contro gli interessi del proprio paese, gli interessi personali, la sicurezza personale, quindi è fare contro tutto il nostro sistema economico e sociale. Va combattuta con tutte le forze, non soltanto attraverso i meriti, l'avete prima intervistato il comandante di Alassio, straordinari di Guardia di Finanza, di Carabinieri, delle municipali, ma attraverso un cambiamento completo di cultura su questo argomento. Ecco, contraffare e fare contro, come lei diceva, so che ci tiene particolarmente a questo slogan, l'imperativo non dovrebbe essere fare per con il punto interrogativo, e questo sarà proprio lo slogan della vostra prossima assemblea annuale che si svolgerà subito dopo le vacanze, il 22 settembre. Presidente, quello di cui parliamo questa mattina, lo dicevo, è un tema non certamente nuovo, perché dicevo, e lo diceva anche il presidente di Indicam, danneggia pesantemente l'economia del nostro paese, eppure il fenomeno della contraffazione non sembra conoscere crisi. Perché, presidente? Perché qua abbiamo, a parte la malavita che ovviamente trova il modo di organizzarsi sempre nel migliore dei modi per svilupparsi e tenere banco, ma il tema è che è un mercato che non conosce crisi, perché appunto c'è un mercato, c'è una bella fetta di clientela che si accontenta anche di avere una borsa di Prada che sa che di Prada non è. Certamente, ecco. Certamente c'è questo problema. Va ricordato peraltro, e questo è una valutazione in termini squisitamente industriali, che quanto viene copiato è copiato perché è prodotto top sul mercato, cioè ha una sua riconoscibilità e ha già un suo mercato. Quindi vengono copiati soltanto unicamente i prodotti di successo. Questo cosa significa? Significa che tutto il resto, per arrivare a un prodotto di successo, ogni azienda ne deve fare 100, 200, spendendo in ricerca, in innovazione, tutte cose che la contraffazione, proprio per la sua caratteristica parassitaria, non tiene conto e copia soltanto il prodotto di successo. Evidentemente poi focalizza la sua attenzione a produrlo a prezzi bassi che non tengono conto delle ragioni di successo, cioè proprio quelle dell'innovazione, della ricerca, delle spese sostenute in quello e delle spese di comunicazione per farlo conoscere al pubblico. Voi lavorate molto anche con le forze dell'ordine, presidente Guglielmi, per tentare di capire anche cosa è necessario fare per tentare di disincentivare dall'acquisto di questi prodotti che troviamo sulla spiaggia, di spiaggia ancora torno a parlare perché questo è il periodo delle vacanze. Le nuove norme anticontraffazione che sono contenute nel DDL Sviluppo, che è stato approvato nei giorni scorsi, corsi e in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e che renderanno più agevole ai vigili urbani l'applicazione delle sanzioni a chi acquista prodotti pirata. Sono misure sufficienti? Secondo lei quindi l'azione deterrente contro la clientela è questa la strada che deve continuare? Guardi, abbiamo contribuito a stendere queste norme e quindi siamo consapevoli del risultato che possono ottenere. Non sono sufficienti né le norme né la straordinaria, insisto, capacità e volontà delle forze dell'ordine. Ci deve essere assolutamente un cambio culturale. Voglio ricordare a tutte quelle signore che si permettono di comprare fularini o borse copiate sulle spiagge che le stesse persone che le vendono fanno parte di organizzazioni criminose che al loro ritorno a Milano o nelle grandi città venderanno droga ai loro figli. Quindi loro sono complici nel momento dell'acquisto della malavita organizzata, della peggiore. Quindi di fenomeni che hanno una portata ben più ampia. Vorrei ritornare al capitano Samuele Sighinolfi, perché l'azione delle forze dell'ordine, lo riconosceva anche il presidente Guglielmi, è sempre molto intensa, ma si ha a volte l'impressione che comunque alla fine della fiera le forze dell'ordine siano costrette in qualche modo a chiudere un occhio. Le faccio un esempio: andiamo a Brera, a Milano, in pieno centro, e vediamo tutte queste lunghe sfilate di venditori ambulanti con le loro borse, con la loro merce contraffatta. Passa un vigile urbano, loro si nascondono, ma nel giro di 10 minuti sono di nuovo lì sul loro posto. L'attività di contrasto appunto tende necessariamente a volte a chiudere un occhio, capitano Sighinolfi? Sono poveracci che alla fine ci fanno pena, ecco. Sì, l'attività di contrasto deve essere sempre più organizzata, perché loro ovviamente sono diventati più scaltri e hanno delle vedette appostate che avvisano dell'arrivo delle forze dell'ordine, sono molto veloci, diciamo, nella fuga, e diventano anche pericolosi perché anche in spiaggia, ad esempio, travolgono bambini e bagnanti. Ecco. Quindi bisogna stare molto attenti a organizzare questi servizi, che ovviamente devono essere fatti in borghese, e cercare di evitare che ci siano degli incidenti con i turisti, quindi salvaguardare l'incolumità dei cittadini. Capitano, un'ultima cosa: tutta la merce che sequestrate, che fine fa? Perché qua ci sono delle destinazioni ovviamente diverse, alcune sono obbligate, altre un po' meno, addirittura qua possiamo anche alimentare il filone della beneficenza in alcuni casi, ci racconti? Sì, la merce viene confiscata, se si tratta di prodotti con marchio contraffatto, questi prodotti vengono distrutti, sono a disposizione dell'autorità giudiziaria e poi al termine del procedimento verranno distrutti, mentre i prodotti con marchio non contraffatto vengono confiscati e dati ai comuni, che ne dispongono per o la distruzione oppure la ridistribuzione. Ad esempio, in settimana abbiamo sequestrato centinaia di rose dai venditori di rose, quelli che troviamo ai semafori qualche volta, entrano la sera nei ristoranti, e le abbiamo distribuite negli ospedali, sui comodini degli anziani ricoverati. Benissimo, però insomma non porteremo invece in questi luoghi le borse, le cinture, i portafogli contraffatti. Io vi ringrazio molto per la vostra attività, soprattutto al capitano Samuele Sighinolfi, comandante della Compagnia Carabinieri di Alassio, ma anche a Carlo Guglielmi, presidente di Indicam. Seguiremo naturalmente i lavori dell'assemblea dell'Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione in settembre. Rifaremo un punto della situazione, speriamo questa mattina di aver un po' sensibilizzato tutti gli ascoltatori intorno a questo argomento, e quindi lasciamo perdere se ci tentano anche con la borsa Irene più bella del mondo in spiaggia. Ma beh, noi qua lavoriamo. Devo dire, un excursus molto complesso, molto interessante, infatti, che ha messo in luce aspetti non sempre noti. E pensiamo infatti a questa borsa, di solito vediamo solo quella. Grazie Deborah, grazie Rosciana, a Salvadanaio. Oggi a Salvadanaio ritorniamo a parlare di vacanze, perché dobbiamo capire che fine hanno fatto tutti coloro che hanno prenotato dei voli con Myer, questa compagnia che è rimasta a piedi perché lei che ha imposto appunto alla compagnia di non viaggiare più. E poi c'è anche un altro tour operator che è fallito, Todomondo, e anche qua tante famiglie a piedi che hanno prenotato la loro vacanza, l'hanno anche pagata, ma adesso non possono partire. Beh, vi seguiremo con interesse. 33 minuti dopo le 8, ancora Irene Zerbini al microfono, e oggi in primo piano l'appello di Obama alla Cina. Il presidente americano ha lanciato un appello aperto alla 2 giorni di incontri con esponenti del governo cinese e ha indicato questa collaborazione tra Washington e Pechino come fondamentale, naturalmente, non solo in questo momento storico, ma i rapporti tra Cina e Stati Uniti decideranno in gran parte la direzione che prenderà questo secolo. Per quel che riguarda l'Afghanistan, ci sarà questa seduta congiunta delle commissioni difesa ed esteri oggi, chiamate a votare il disegno di legge di proroga e rifinanziamento cambiamento, non ci si aspettano sorprese e dunque non ci dovrebbe essere nessuna suspense sull'ok della Lega. È ancora 10 anni a Mercadante, radiologo ed ex deputato di Forza Italia. Una sentenza, stiamo parlando di un medico eletto all'Assemblea regionale siciliana nelle file di Forza Italia, che è stato condannato per mafia a 10 anni e 8 mesi, una sentenza pronunciata dai giudici della seconda sezione del Tribunale di Palermo poco prima delle 2 di notte, dopo oltre 7 ore di camera di consiglio. In primo piano inevitabilmente anche il nuoto, e la giornata della Filippi alle 18.35, la finale dei 1500 metri stile libero, naturalmente donne. Noi invece ci occupiamo del 1.700.000.000 di debiti accumulati nella sanità calabrese. La Regione Calabria ha 30 giorni di tempo per predisporre un piano di rientro del deficit e in caso contrario sarà nominato un commissario ad hoc. Dunque, per discutere di questo buco impressionante abbiamo con noi oggi il professor dell'Università della Calabria di diritto amministrativo sanitario Ettore Iorio. È stato nominato soggetto attuatore del commissario governativo per l'emergenza socio-economica sanitaria. In pratica ha avuto il compito di identificare il debito della sanità calabrese. Grazie per il suo tempo, professor Iorio. Ringrazio voi per l'invito. Innanzitutto devo chiederle quali sono le voci principali di questo buco da 1.700.000.000. Ma le voci principali di questo buco sono dettate soprattutto dai debiti consolidati verso fornitori, cioè così come è avvenuto in tutte le altre regioni che hanno accertato fino ad oggi disavanzi pregressi di gran lunga peraltro superiori rispetto a quello della Calabria. Tenga conto che le regioni oggi soggette a piano di rientro sono 7. Insomma, certo, no, spaziamo infatti questo, sì, il campo da questo tipo di frainteso. Ci stiamo occupando della Calabria, è una situazione che purtroppo non ha risparmiato nessuna regione in Italia o comunque moltissime. Lei ha fatto parte anche della Corte dei Conti, avrà visto pignoramenti, decreti ingiuntivi, conti in disordine anche altrove. Ma concentriamoci innanzitutto nell'analisi di questo tema. Arriviamo al buco. Era nascosto così bene o c'è stata qualche leggerezza, per non essere maligni, nell'analisi dei conti? Cioè, come si è potuto arrivare a questa cifra? Ma in realtà le dico questo. Io sono stato nominato nel maggio del 2006 appunto dal commissario per l'emergenza economico-sociosanitaria governativo, il quale mi ha dato l'incarico di fare 2 cose, definire l'accorpamento che era in atto alle aziende, perché sostanzialmente le aziende erano 11 e la regione decise di accorparne in 5, ecco, e poi di fare la ricognizione del debito pregresso, in particolar modo quello del 2006. Se una responsabilità c'è stata allora è stata quella della Regione Calabria, che ha sottovalutato le indicazioni che pervenivano dalla finanziaria del 2005 in poi, cioè, ovvero sia, ha continuato nell'inconsapevolezza del debito e ha preferito fare così come facevano tutte, non dichiarare i disavanzi correnti in modo più attento per far sì, per godere delle premialità che cui lo Stato sottoponeva, ecco, appunto il pareggio dei bilanci. Professore Iorio, la fermo solo un attimo per aggiungere un contributo di Antonio Cantisani, un giornalista capo servizio della città di Catanzaro e provincia per Calabria Ora. Buongiorno, benvenuto Antonio. Sì, buongiorno, grazie dell'invito. Buongiorno, vorrei chiederti voragini di questa natura, che voragini di questa natura passino inosservate? È decisamente così inspiegabile agli occhi dei profani. Forse i controlli dovrebbero essere ben più stringenti. Sì, ma io penso che il vero problema che si sia verificato, perché quando guarda l'emersione del debito e in generale il debito della sanità calabrese, c'è stato questo, ci sono stati anni e anni e anni, ma penso anche decenni di assoluta assenza di controlli anche a livello centrale, parlo anche del dipartimento regionale, e di una sostanziale anarchia di cui hanno goduto le aziende sanitarie, tenendo presente anche un altro aspetto, che le aziende sanitarie calabresi sono state sono in tutta Italia quelle che hanno, diciamo, registrano il maggior numero di turnazione nelle, nei ruoli apicali, il che significa naturalmente un continuo stop and go, una perenne discontinuità gestionale. Difficile anche assumersi delle responsabilità in questo tipo di situazione strutturale. Sì, molto spesso è anche vero che probabilmente anche una buona dose di sfortuna, molto spesso le persone, i dirigenti individuati anche dalla regione alla guida delle aziende sanitarie si sono rivelati in vari casi o incompetenti, in alcuni casi addirittura anche dei delinquenti veri e propri, quindi insomma è tutta una si è verificata tutta una serie di circostanze che hanno determinato questa voragine, non saprei nemmeno come definirlo. Senti Antonio Cantisani, comunque tu scrivi su Calabria Ora e dal punto di vista dei servizi, tra l'altro a questa spesa non corrispondono servizi eccellenti, anzi è la regione, la Calabria, dalla quale i cittadini fuggono di più quando si tratta di farsi curare. Sì, no, ma Cantisani continua. Pronto? Ah sì, no. Io penso che allora io c'è da fare anche un po' una ricostruzione. Fondamentalmente questa situazione di emersione del debito nasce già da qualche tempo all'indomani di una serie di bruttissime, veramente tragedie che sono verificate una dietro l'altra, tre in particolare. Diciamo tra nel 2007, all'inizio e alla fine del 2007, con alcune tragedie veramente terribili, come una ragazza di 16 anni che muore per un blackout all'ospedale di Vibo Valentia, un bambino di 12 anni che praticamente non riceve assistenza con l'ambulanza. Sono verificate una serie di casi eclatanti che hanno fatto esplodere la situazione. I servizi sono effettivamente questi. Allora io, siccome ho lavorato molto su dei dati, alla Calabria mi risulta che sia la regione che per conto di DRG spende di meno, a fronte di una media nazionale del 40%, per conto di fondo sanitario regionale, la Calabria spende il 25% e il 15% per delle mai chiarite prestazioni non remunerate, così questo tipo. Cioè sono una serie di situazioni che veramente fanno pensare che qui si è pensato tutto tranne che alla salute dei cittadini. Cioè tu ci hai citato casi Antonio Cantisani, in cui appunto questo disordine è addirittura costato la vita dei residenti e dei cittadini. Ma vorrei chiedere a questo punto allora al professor Iorio se ci sono possibilità tecniche, procedurali che si potrebbero cambiare, cioè la possibilità, lasciando da parte naturalmente le lungaggini legate all'approvazione di leggi, di avvicinare questa finanza pubblica a quella privata, o è impensabile? Ma guardi, avvicinare la finanza pubblica a quella privata lo è già, tant'è che quando si parla di accreditati ci si riferisce sia al pubblico che al privato, per cui viviamo già in un sistema di pubblica amministrazione concorrente tra privato e pubblico. Io credo che il problema, lo dicevo un po' Cantisani prima, ecco, che saluto, ecco, volevo il problema serio che in Calabria i maggiori costi, la più grande azienda sanitaria è quella della emigrazione, cioè che ha un valore di ricavi annui che è pari al disavanzo complessivo corrente della regione, all'incirca 250 milioni di euro. Si spieghi meglio, cioè, quando dice la più grande azienda sanitaria è quella dell'immigrazione, cosa intende, a chi si riferisce, cioè, chi emigra? La mobilità passiva, cioè i cittadini calabresi che richiedono, che rivolgono domanda di prestazione al di fuori della Calabria, costa più di quanto costa una normale azienda sanitaria. Ed è un grande segno di sfiducia, tra l'altro. Abbiamo una domanda che si rivolge verso la Lombardia, verso il Lazio, verso l'Emilia, che è pari ai ricavi di un'azienda sanitaria comune. Cioè che in sostanza costituisce uno dei motivi principali del disavanzo strutturale. Qual è la soluzione? Lei ha fatto un'osservazione prima che io condivido. Dove sono i controlli? È lì il problema. Il problema dei controlli che non esistono ovunque. perché altrimenti non si dimostrerebbe detto, questa falcidia di regioni che hanno disavanzi dei quali ci si accorge perché o li autodichiarano o perché qualche commissario se ne va a ritrovarli, e che quindi è un sistema di controlli che va rivisto. C'è un sistema contabile unitario che è un po' anche nello spirito del federalismo fiscale. Quali sono le soluzioni? Diceva, la misura generale è qui, è quella di dire chiudiamo gli ospedali inutili, no? E riduciamo i posti letto e poi mettiamo i ticket. Io credo che non siano queste qui le soluzioni, perché io parto da questo concetto, dottoressa Zerbini, che il chiudere o chiudere ospedali o riconvertire i posti letto, io credo che si risparmi ben poco. E le dico subito perché, perché il maggior costo degli ospedali è rappresentato dal costo del personale. Allora, chiudere l'ospedale o ridurre i posti letto significa mantenere in servizio lo stesso personale, occuparsi comunque di una manutenzione ordinaria e non avere quegli spessori. E quindi qual è la strada da percorrere? Quindi significa investire oggi sul territorio per far sì che il territorio eviti l'istanza che costa di più, che è l'istanza dell'ospedalità. Ah, quindi anche un cambio di mentalità nel tipo di assistenza da fornire ai pazienti. Grazie, grazie a Ettore Iorio. Naturalmente Antonio Cantisani, per la conclusione è stata identificata una data, il 13 settembre, la data che consentirà di capire il futuro della regione Calabria in campo sanitario. Entro quel giorno bisognerà presentare a Roma il piano di rientro. Ti sembra un orizzonte possibile? Io penso che insomma la regione presenterà un piano di rientro, non fosse altro che è obbligata anche a termini di legge, una legge su cui peraltro ci sono molti dubbi per quanto riguarda la legittimità costituzionale. Comunque io penso che lo produrrà, bisogna capire che tipo di piano di rientro verrà prodotto, perché io condivido quello che dice il professor Iorio sul problema degli ospedali. Perché il problema degli ospedali è vero, sono tanti, sono troppi, l'impatto del taglio degli ospedali è minimale. Non è significativo. Il problema è insomma è il fatto del rapporto, diciamo, valore di produzione, costo di produzione. Naturalmente se la gran parte della spesa di un ospedale riguarda il personale. E poi ci sono delle situazioni veramente allucinanti, c'è un ospedale. Ma quindi secondo te entro il 13 di operatori, entro il 13 settembre si proporrà un piano di rientro sulla carta e poi tutto rimarrà come prima? Secondo me vanno distinti due livelli. Io penso che da un punto di vista tecnico la Regione Calabria potrà presentare anche un gran bel piano di rientro. Sul piano politico c'è ormai un'indicazione anticipata anche dalle decisioni per campagna in Molise e altre ancora. Fermo restando che la Calabria non è una regione canaglia più di altre, ma certamente la situazione della sanità calabrese e infatti questo l'abbiamo è precisato. È vero che i commissariamenti anche come quello del Lazio non è che abbiano prodotto tutti questi effetti in termini, però insomma lo vedi dietro l'angolo. Antonio, grazie e torneremo, immagino, spinti dai fatti purtroppo anche ad affrontare queste realtà in futuro. Antonio Cantisani è il capo servizio di Catanzaro per Calabria ora, e l'altra voce di Ettore Iorio è un professore all'Università della Calabria di diritto amministrativo sanitario, soprattutto ha fatto parte del gruppo di lavoro che ha identificato il debito della sanità calabrese. E ritorniamo insieme per parlare di un professore che ha studiato in India, ha conseguito il dottorato negli Stati Uniti e poi è stato chiamato alla Bocconi, un posto che molti sognano in ambito accademico internazionale. Dopo 4 anni di onorato servizio, insegnava, sembra un po' un paradosso, tecniche di globalizzazione in inglese, questo professore Vikas Kumar ha rinunciato a stare alla Bocconi. Il problema? Burocratico, e l'ha raccontato lui, ora vive in Australia, dove insegnerà d'ora in poi, e abbiamo parlato con lui ieri. Sentiamo perché ha dovuto passare più tempo a esaminare documenti dell'immigrazione che a insegnare mentre era alla Bocconi. I joined the Bocconi University in September of 2004. Sono arrivato all'Università Bocconi nel settembre del 2004 e vi sono rimasto legato per 5 anni. Facevo ricerche e insegnavo lì. Avrei potuto rimanere più a lungo. Ma uno dei problemi principali per me è stato che dovevo ottenere un permesso di soggiorno dal governo italiano per poter avere il visto lavorativo. Questo permesso è rilasciato a ogni persona per un periodo di 2 anni. La prima volta che sono entrato in Italia e ho ottenuto un permesso di lavoro era il 2004 e quella autorizzazione rimase valida fino al settembre del 2006. Poi sono stato in grado di rinnovare il permesso per altri 2 anni e rimanere così in Italia fino al 2008. A settembre di quell'anno il mio permesso scadde. L'Università Bocconi inoltrò una domanda di estensione del permesso, ma a luglio 2009, quando sarei dovuto ritornare alla Bocconi, non sono stato in grado di ottenere la proroga del permesso di lavoro. Ho avuto esperienze in paesi diversi. Questo processo è molto burocratizzato ovunque, ma direi che in questo caso l'Italia è un po' peggio degli altri paesi. Al punto che diventa impossibile ottenere un permesso di soggiorno. Sull'immigrazione, in particolare, nazioni come l'Australia sono molto più efficienti. In paesi come il Regno Unito, gli Stati Uniti o l'Australia, la strategia è appunto quella di permettere a persone che vengono dall'estero e che abbiano almeno conseguito un master o un dottorato di ricerca di entrare nel paese con una procedura relativamente facile e integrarsi con la forza lavoro del posto. E questa era la voce del professor Vikas Kumar che abbiamo intervistato a Sydney in Australia, dove ora vive e insegnerà. La Bocconi, va precisato, si è adoperata tra l'altro, ma per un inghippo, per un altro ritardo burocratico, non ha potuto iscriversi, inteso soggetto all'università, all'albo istituzionale, perché è comparso sul sito del ministero questo bando solo 9 mesi dopo essere stato istituito, perché grazie a un decreto si era deciso, insomma, che docenti e ricercatori stranieri possano ottenere un permesso che copra tutta la durata del contratto, proprio per non costringerli a questi continui rinnovi. Insomma, un quadro complicato, il cui risultato finale è stato perdere una grande risorsa. Ne abbiamo un'altra invece di risorsa in onda, lui è il professor Alberto Quadrio Curzio, ordinario di economia politica all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove preside dall'89 della Facoltà di Scienze e Politiche. E buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Professor Quadrio Curzio, questa storia non è singolare, lei lo saprà bene. Sì, certo, lei l'ha descritta molto bene e anche richiamato l'attenzione sull'aspetto conclusivo, e cioè che vi è un decreto legge recentemente uscito, mi pare agli inizi del 2008, che prevede la concessione del permesso di soggiorno per tutta la durata del contratto a quei ricercatori, studiosi, docenti che vengono in Italia. Si dice appunto che tuttavia la parte esecutiva di questo decreto non sia stata perfezionata in tempo con riferimento al caso specifico del professore Kumar, ragione per cui, non essendosi potuta l'università precitata iscrivere, non per causa sua ma per causa della mancanza del regolamento esecutivo a questo cosiddetto albo, ebbene la conclusione è quella che abbiamo sentito, che certamente non è una conclusione gradevole e una conclusione meritoria per il nostro paese. Questo è si spinge sul pedale dell'internazionalizzazione, della globalizzazione, non si parla d'altro, competitività. Miglioriamo anche l'offerta dell'università, questo non può prescindere dall'utilizzo di risorse di professori e ricercatori che vengono dall'estero, e poi ci sono queste problematiche burocratiche che sembrano ostacoli insormontabili. Perché sì, l'Italia è così indietro in questo? Guardi, io credo che l'Italia adesso si stia muovendo sotto questo profilo, e lo stesso decreto che abbiamo citato prima ne è un esempio. Sì. Naturalmente ci vuole un attimo di tempo per rodarsi dopo un periodo in cui questi problemi non avevano grande rilevanza. Devo anche dire che esiste una normativa italiana che consente la chiamata per chiara fama di professori addirittura nella posizione di cattedratico, cioè posizione di ruolo a tempo indeterminato, e ci sono parecchi non italiani che oggi insegnano nelle università italiane in quella posizione. Quindi quella norma è una norma che consente di scavalcare tutto, perché quando un soggetto viene chiamato alla cattedra a tempo indeterminato non c'è più un problema di permesso di soggiorno, è assunto alle dipendenze dello Stato italiano. Professor Quadro Curzio, le propongo uno spaccato tratto da un'altra realtà, riguarda invece un altro tipo di lavoratori, sono gli sportivi, sono i calciatori in particolare. Senta cosa ci ha raccontato l'avvocato Mattia Grassani, uno dei massimi esperti di diritto sportivo, a cui abbiamo chiesto se sia mai capitato a una squadra di calcio di dover rinunciare a un talento perché aveva problemi col permesso di soggiorno. La categoria dei lavoratori sportivi professionisti è una categoria che in questo contesto è assolutamente privilegiata rispetto alla mobilità e ai trasferimenti dei lavoratori comuni per quanto riguarda i provenienti extra UE. Le procedure e gli organi che gestiscono questo tipo di adempimenti hanno canali assolutamente accelerati e preferenziali. Questa procedura, diciamo, che non passa attraverso tutti quegli adempimenti che sono obbligatori per i lavoratori comuni, riguarda anche altre discipline, oltre al calcio e alla pallacanestro, tra cui il pugilato, il ciclismo, il golf e in generale tutti quegli sport che la legge 91 dell'81 individua come sport che si possono praticare a livello professionistico. Allora, avvocato, possiamo dire che un professore universitario ha più difficoltà di un calciatore a rimanere in Italia? Diciamo che calciatore, cestista o ciclista, se hanno il datore di lavoro e quindi il club o la società disposti a tesserarli e sottoporgli un contratto di prestazione sportiva professionistica, hanno assolutamente tempi imparagonabili rispetto a un professore universitario. E questa era la testimonianza dell'avvocato Mattia Grassani, massimo esperto di diritto sportivo. Io l'ho proposta, professor Quadrio Curzio, proprio per tracciare una sorta di parallelo. Siamo ben contenti per il diritto sportivo, ma perché non accelerare, perché non rendere, perché non svecchiare anche in altri ambiti che sarebbero cruciali? Non c'è dubbio che sarebbe fondamentale, ma ripeto, a me pare che qualche passo in avanti si stia compiendo. Naturalmente, quando scoppiano dei casi come quello che abbiamo discusso poc'anzi, è anche ben utile che ciò accada, perché questo mette in evidenza l'assoluta necessità di arrivare a conclusioni che non vorrei dire paragonabili a quelle degli sportivi, perché il parallelo è certamente eclatante, ma non è che mi convinca. È chiaramente una provocazione. È una provocazione, e tuttavia io spero che ciò accada. Vorrei però fare una piccolissima aggiunta. Non c'è tanto, c'è il problema che abbiamo discusso rimane un problema serio, e tuttavia molti paesi in via di sviluppo non vogliono più parlare di brain drain, ma vogliono parlare di brain circulation. Se lei va a vedere il sito dell'Accademia dei Lincei, le accademie africane che hanno partecipato in rappresentanza al G8 dell'Accademia hanno lamentato il fatto che i paesi cosiddetti in via di sviluppo vengono in qualche modo impoveriti con offerte delle economiche, loro risorse intellettuali. E quindi il problema deve essere trasformato da brain drain, che vuol dire sostanzialmente emigrazione di cervelli, perdita, brain fuga, circulation, che vuol dire cooperazione. Chiaro, e che questo può essere anche temporale. Cruciale, è un punto cruciale. Grazie. Perché altrimenti lo sviluppo di quei paesi sarà molto difficile. grazie ad Alberto Quadrio Curzio, ordinario di economia politica all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Prima di concludere, una precisazione doverosa riguarda una domanda abbiamo posto ieri: il divorzio, qual è la nazione il cui ordinamento giuridico in Europa non lo prevede? Complimenti a Marco, era proprio Malta. Ci salutiamo perché le notizie sono dietro l'angolo, l'appuntamento con il notiziario da Irene Zerbini, l'appuntamento invece è per domani mattina alle 7:30.